Capitolo 5. Per il motivo indicato alla fine del precedente capitolo, le bambine furono rimandate a casa nell'autunno del 1825, quando Charlotte aveva poco più di 9 anni. Verso quel tempo, una donna di età matura salì dal villaggio per andare a vivere come domestica nella canonica. Vi rimase come membro della famiglia per 30 anni, e per il lungo tempo durante il quale servì fedelmente, nonché per l'affetto e il rispetto che seppe ispirare, merita di essere ricordata. Tabby era un perfetto campione di popolana dello Yorkshire, ne parlava il dialetto e ne aveva l'aspetto e il carattere tipici. Abbondava in forte senso pratico e solido buonsenso, non sapeva blandire ma non risparmiava fatiche per servire la causa di quelli a cui voleva bene. Faceva rigar dritto i bambini e le bambine senza tanti complimenti, però non trascurò mai di darsi da fare per procurar loro quei piccoli piaceri che erano nelle sue possibilità. In cambio chiedeva di essere considerata alla stregua di un'umile amica, e molti anni più tardi Miss Bronte mi disse che si era fatto difficile accontentarla, visto che Tabby si aspettava di essere informata di tutto quanto riguardava la famiglia anche dopo essere diventata così sorda che bisognava alzare la voce per farsi udire da lei, di modo che quel che le veniva detto era recepito da chiunque fosse presente in casa o lì vicino in quel momento. Per ovviare a rendere pubblico quanto era desiderabile non divulgare, Miss Bronte aveva preso l'abitudine di portarla a passeggio in brughiera, dove, dopo aver raggiunto un qualsiasi luogo alto e deserto, ambedue sedevano su un sasso e la vecchia domestica veniva messa al corrente di tutto quanto desiderava sapere. Tabby aveva vissuto a Haworth nei giorni in cui i cavalli da carico ne scendevano la via una volta alla settimana, animandola con i loro sonagli e i loro ornamenti intrecciati per trasportare i prodotti della contrada da Keighley a Colne o a Burley al di là delle colline. Per di più, ella aveva conosciuto la valle nei giorni in cui, nelle notti di plenilunio, le fate frequentavano le sponde del ruscello a fondovalle e aveva parlato con persone che affermavano di averle viste. Naturalmente allora non vi erano lanifici nelle valli, tutta la lana veniva filata a mano nelle fattorie della regione. «Sono i lanifici che le hanno messe in fuga, le fate», diceva. Aveva molto da narrare su quanto era accaduto un tempo in quelle campagne, antichi costumi, vecchi abitanti, aristocrazia decaduta che si era dissolta, ormai ignorata nei suoi antichi piccoli feudi, tragedie familiari e cupe superstizioni sull'inevitabilità del destino. E narrando, senza averla benché minima idea che vi potessero essere cose che richiedevano di venire alquanto velate, ne dava in pieno i nudi e crudi particolari. Miss Branwell a ore fisse insegnava ai bambini tutto quanto sapeva, trasformando per loro la propria camera da letto in aula scolastica. Il padre, da parte sua, era solito riferir loro le notizie di pubblico interesse che attiravano la sua attenzione. E da quella mente forte e indipendente, le figlie ricavavano continuo alimento per le loro che erano attivissime. Ma non so se gli impartisse loro anche una vera e propria istruzione. Sembra che l'intelligenza profonda e pensosa di Charlotte capisse fin da allora quasi penosamente la tenera responsabilità che le toccava nei riguardi delle sorelline. Aveva solamente 18 mesi più di Emily, ma Emily e Anne erano tra loro compagne di vita e di gioco, mentre Charlotte era maternamente amica e custode di ambedue. E questa amorosa accettazione di un dovere tanto più grande della sua età la faceva sentire molto maggiore di quanto fosse in realtà. Il loro unico fratello, Patrick Branwell, era un ragazzino che prometteva molto e da un certo punto di vista dotato di un talento straordinariamente precoce. Gli amici di Mr. Bronte lo consigliavano di mettere il figlio in collegio, ma lui, ricordando la propria ostinata volontà e il modo in cui l'aveva esplicata in gioventù, pensava che Patrick stesse meglio a casa ed era convinto di potergli dare una sufficiente istruzione, come aveva fatto con altri in passato. Così Patrick, o meglio Branwell, come lo chiamavano in famiglia, rimase a Haworth lavorando sodo sotto la direzione del padre alcune ore al giorno. Ma quando il tempo del reverendo era reclamato dai doveri parrocchiali, il maschietto era lasciato alla indiscriminata compagnia dei monelli del villaggio, poiché la gioventù è attratta dalla gioventù e i ragazzi sono attratti dai ragazzi. Tuttavia si associava anche a molti dei giochi e dei divertimenti delle sorelle e per lo più erano di genere sedentario e intellettuale. Mi è stato affidato un curioso pacco che contiene un incalcolabile numero di manoscritti stesi in uno spazio inconcepibilmente ridotto, racconti, drammi, poesie, romanzi, scritti principalmente da Charlotte, con una grafia che è quasi impossibile decifrare senza una lente di ingrandimento. Nessuna descrizione può dare una migliore idea di una simile mano. Fra queste carte vi è un elenco delle sue opere. Lo trascrivo come curiosa prova di quanto la furia della produzione letteraria si fosse impossessata di lei fin da quei primi anni. Catalogo dei miei libri, con il periodo del loro completamento fino al 3 agosto 1830. Due racconti romantici in un volume, Le 12 avventure e Avventure in Irlanda, 2 aprile 1829. La ricerca della felicità, racconto, primo agosto 1829. Ore di tempo libero, racconto e frammenti, 6 luglio 1829. Le avventure di Edward de Crack, racconto, 2 febbraio 1830. Le avventure di Ernest Allenbert, racconto, 26 maggio 1830. Un interessante incidente nelle vite di alcuni fra i più eminenti personaggi dell'epoca. Un racconto, 10 giugno 1830. Racconti degli isolani in 4 volumi. Caratteri di grandi uomini dell'era presente, 17 dicembre 1829. Rivista dei giovinetti in 6 numeri. Il poetastro, dramma in 2 volumi, 12 luglio 1830. Libro di versi, finito il 17 dicembre 1829. Miscellanea di poesie, finito il 30 maggio 1830. Firmato Charlotte Bronte, 3 agosto 1830. Siccome ogni volume contiene da 60 a 100 pagine, la somma complessiva del lavoro risulta grandissima quando ricordiamo che il tutto fu scritto in circa 15 mesi da una bambina. Fin qui, quanto attiene alla quantità. Della qualità mi colpisce l'alto merito, se ricordiamo che fu scritto da una ragazzina tra i 13 e i 14 anni. Come campione dello stile della sua prosa, che per di più apre uno spiraglio sulla quieta vita condotta da quelle bambine tra le pareti domestiche, cito un brano ricavato dall'introduzione dei Racconti degli Isolani, titolo di una delle loro piccole riviste. 13 giugno 1829. Il lavoro teatrale Gli Isolani prese forma nel dicembre del 1827 nel modo seguente. Una sera, circa al tempo in cui i freddi acquazzoni e le nebbie tempestose di novembre sono sostituiti dalle tempeste di neve e dagli alti pungenti venti notturni dell'inverno dichiarato, ce ne stavamo tutte sedute intorno alla calda fiamma che ardeva in cucina, avendo appena concluso un bisticcio con Tabby circa l'opportunità di accendere una candela, dal quale lei era uscita vittoriosa e perciò nessuna candela era saltata fuori. Una lunga pausa era seguita, che fu alla fine rotta da Branwell, che disse pigramente: «Non so cosa fare». Queste parole furono riecheggiate da Emily e da Anne. «Tabby, quello che potete fare è andare a letto». «Branwell, farei qualsiasi cosa piuttosto di questo». «Charlotte, perché sei di umore così cupo questa sera, Tabby? Oh, immaginate se avessimo un'isola tutta per noi». «Branwell, se l'avessimo sceglierei l'isola di Man». «Charlotte, e io sceglierei l'isola di White». «Emily, per me è l'isola di Arran». «Anne, la mia dovrebbe essere Gensty». Poi scegliemmo i capi delle nostre isole. Branwell scelse John Ball, Ashley Cooper e Leif Hunt. Emily, Walter Scott, Mr. Lockhart, Johnny Lockhart. Anne, Michael Sadler, Lord Bentinck, Sir Harry Holford, e io scelsi il Duca di Wellington e i suoi due figli, Christopher North e Mr. Abernethy. Qui la conversazione fu interrotta dal triste, per noi, suono dell'orologio che batteva alle 7 e fummo spediti a letto. Il giorno seguente aggiungemmo molti altri nomi al nostro elenco, finché prendemmo quasi tutti i principali uomini del reame. Dopo questo nulla degno di nota avvenne. Nel giugno del 1827 costruimmo una scuola inventata in una delle isole che doveva contenere 1000 ragazzi. Il tipo dell'edificio era questo. L'isola aveva 50 miglia di circonferenza e certamente appariva molto più l'opera di un incanto che qualsiasi altra cosa. Nel brano qui sopra riportato, due o tre cose mi colpiscono fortemente. Una è la grafica vividezza con cui il tempo dell'anno, l'ora della sera, la sensazione del freddo e dell'oscurità, lo strepito dei venti notturni che spazzano le desolate lande coperte di neve, facendosi sempre più vicini, giungono infine a scuotere la porta stessa della stanza dove siedono le ragazzine col fratello, che si apre proprio sulla squallida distesa esterna, in contrasto al rosso della brace e alla lieta attività che pervade la confortevole cucina che accoglie quelle eccezionali bambine. Tabby, vestita da campagnola, frugale e perentoria, che viene pronta a richiamarli all'ordine, seccamente, ma subito sulla difensiva, ne possiamo star certi, se qualcun altro biasima le sue piccole. Altro fatto degno di nota è l'intelligente acume politico con cui vengono scelti i grandi uomini, quasi tutti fra i più saldi Tories di quegli anni. Non si accontentano degli eroi locali, la loro scelta si basa sulle notizie che, considerate generalmente prive di interesse per bambine e bambini, sono state da loro raccolte accuratamente. La piccola Anne, che ha compiuto a malapena gli 8 anni, sceglie alcuni uomini politici del giorno per metterli a capo della sua isola. Un altro foglietto che, coperto dalla tipica, quasi illeggibile grafia, risale su per giù a quell'epoca, ci permette di scoprire la fonte a cui attingevano le loro opinioni. La storia dell'anno 1829. Una volta papà imprestò un libro a mia sorella Maria, era un vecchio volume di geografia. Lei scrisse sulla prima pagina bianca: "Papà mi ha imprestato questo libro". È un libro vecchio di 120 anni, in questo momento è qui davanti a me. Mentre scrivo sono nella cucina della canonica di Haworth, Tabby, la domestica, sta rigovernando le stoviglie della prima colazione e Anne, la mia sorellina più piccola, Maria è la maggiore, è inginocchiata su una sedia, intenta a guardare qualcosa che Tabby ha cotto al forno per noi. Emily è nel soggiorno e spazza il tappeto. Papà e Branwell sono andati a Keighley. La zia è già di sopra in camera sua e io sono seduta al tavolino intenta a scrivere in cucina. Keighley è una piccola città, 4 miglia da qui. Papà e Branwell sono andati a prendere il giornale L'Informatore di Leeds, un eccellentissimo quotidiano Tory, pubblicato dal direttore Mr. Wood e dal proprietario Mr. Hanneman. Noi compriamo 2 giornali alla settimana e ne leggiamo 3. Comperiamo l'Informatore di Leeds e il Mercury di Leeds, quotidiano Whig, pubblicato da Mr. Baines e da suo fratello, da suo genero e dai suoi 2 figli, Edward e Talbot. Vediamo, il John Bull è extra Tory, molto violento. Ce lo impresta Mr. Driver insieme al Blackwood, la più completa rivista che ci sia. Ne è direttore Mr. Christopher North, un vecchio signore di 74 anni. Compie gli anni il 1º aprile. La sua redazione è formata da Timothy Tickler, Morgan O'Doherty, Macrabin Mordecai, Mallion Warnell e James Hogg. Uomo di straordinarissimo genio, guardiano di pecore, scozzese. I nostri lavori teatrali sono stati fissati. Giovanotti, giugno 1826, i nostri compagni, luglio 1827, gli isolani, dicembre 1827. Questi sono i nostri 3 grandi lavori che non sono stati tenuti segreti. I migliori lavori di Emily e miei furono decisi nel dicembre 1827. Lavori migliori significa lavori segreti, sono molto belli. Tutti sono molto strani. Non ho bisogno di mettere sulla carta la loro natura, poiché penso che me le ricorderò per sempre. Il lavoro teatrale Giovanotti prese lo spunto da alcuni soldatini di legno che aveva Branwell. I nostri compagni dalle favole di Esopo e gli isolani da alcuni fatti che accaddero. Farò più esplicitamente uno schizzo dell'origine dei nostri lavori, se mi riesce. Per prima cosa, i Giovanotti. Papà a Leeds comprò a Branwell alcuni soldatini di legno. Quando papà giunse a casa era notte e noi eravamo a letto. Così l'indomani mattina Branwell venne alla nostra porta con una scatola. Emily ed io balzammo dal letto e io afferrai un soldatino ed esclamai: "Questo è il duca di Wellington, questo sarà il duca". Quando ebbi detto questo, Emily ne prese uno e disse che doveva essere suo. Il mio era il più bello di tutti, e il più alto, e il più perfetto da tutti i punti di vista. Quello di Emily era un tipo dall'aspetto serio e lo chiamammo Gravy. Quello di Anne era una cosina dall'aspetto grave, proprio come lei, e lo chiamammo piccolo attendente. Branwell scelse il suo e lo chiamò Bonaparte. Quanto sopra rivela qualcosa circa le letture cui erano interessate le piccole Bronte, ma il loro desiderio di maggiore informazione deve essere stato rivolto in molte direzioni, poiché trovo una lista di pittori di cui desidero vedere i lavori, messa giù da Charlotte Bronte quando aveva appena 13 anni. Guido Reni, Giulio Romano, Tiziano, Raffaello, Michelangelo, Correggio, Annibale, Carracci, Leonardo da Vinci, Fra Bartolomeo, Carlo Cignani, Van Dyck, Rubens, Bartolomeo Ramerghi. Ecco, questa ragazzina che in una remota canonica dello Yorkshire, dove probabilmente non ha mai visto in vita sua nulla che meriti il nome di quadro, studia i nomi e le caratteristiche degli antichi grandi maestri italiani e fiamminghi, i cui lavori anela di vedere in un futuro che si perde nella notte del tempo che le si stende dinanzi. Vi è uno stralcio di scritto che contiene lo studio minuzioso e la critica delle incisioni sull'offerta dell'amicizia per il 1829, che dimostra quanto per tempo ella abbia formato quelle abitudini di minuziosa osservazione e paziente analisi delle cause e degli effetti che negli anni susseguenti servirono così bene da punto d'appoggio al suo genio. Il modo in cui Mr. Bronte associò i figli fin da bambini al proprio grande interesse per la politica deve aver fatto molto per evitare che le loro menti venissero limitate o inquinate dai pettegolezzi locali. Cito l'ultimo brano che tratta fatti personali nei racconti degli isolani. È una specie di scusa che si legge nell'introduzione del secondo volume, intesa a giustificare il perché il lavoro non era stato continuato prima di allora. Gli scrittori erano stati a lungo molto occupati e ultimamente troppo assorti dalla politica. Il Parlamento è stato aperto e il grande problema cattolico introdotto e le misure prese dal Duca palesate e tutto si è fatto calunnia, violenza, spirito di parte e confusione. Oh, quei 6 mesi dal momento del discorso del re fino alla fine. Nessuno poteva scrivere, pensare o parlare d'altro se non della questione cattolica e del Duca di Wellington e di Mr. Peel. Ricordo il giorno in cui l'informazione straordinaria arrivò riportando il discorso di Mr. Peel contenente le condizioni alle quali i cattolici potevano essere ammessi. Con che ardore papà stracciò la busta e come noi tutte ci radunammo intorno a lui e ascoltammo trattenendo il respiro mentre le condizioni venivano palesate a una e spiegate e argomentate così abilmente e così bene. Poi, quando tutto fu finito, la zia disse che andava benissimo e che i cattolici non ci potevano danneggiare con garanzie così buone. Ricordo anche i dubbi circa la loro approvazione alla Camera dei Lords e le previsioni che non lo sarebbero state. E quando giunse il giornale che doveva risolvere il dubbio, l'ansietà con cui ascoltammo tutta la relazione era quasi spaventosa. L'aprirsi della porta, il silenzio improvviso, i duchi di sangue reale nei loro paludamenti e il grande duca con la fascia verde e il panciotto, il rizzarsi di tutti i pari quando si alzò lui, la lettura del suo discorso. Papà che diceva che le sue parole erano come oro prezioso e alla fine la maggioranza di 1-4 in favore della legge proposta. Ma questa è una digressione, eccetera, eccetera. Quanto sopra deve essere stato scritto quando Charlotte era fra i 13 e i 14 anni. Sarà interessante per alcune delle mie lettrici conoscere il carattere dei suoi scritti di pura immaginazione. Mentre la descrizione di qualsiasi accadimento reale è, come abbiamo visto, semplice, efficace, vigorosa, quando lascia la briglia sciolta alla creatività, l'immaginazione e il linguaggio si scatenano, raggiungendo a volte i limiti del delirio. Di questo scrivere sfrenato, a volte difficile da interpretare, sarà sufficiente dare un solo esempio. È una lettera al direttore, tra virgolette, un direttore immaginario di una delle piccole riviste. Signore, è ben risaputa che i geni hanno dichiarato che a meno che essi compiano ogni anno certi difficili compiti di misteriosa natura, tutti i mondi del firmamento saranno arsi e riuniti in un poderoso globo che girerà in solitaria grandezza nella vasta, desolata landa dello spazio, abitato unicamente dai 4 grandi principi dei geni, finché al tempo non subentrerà l'eternità. E l'impudenza di quanto sopra può trovare riscontro solamente in un'altra loro affermazione, e precisamente che con la loro magia essi possono ridurre il mondo a un deserto, le acque più pure in fiumi di livido veleno e i più limpidi laghi in paludi stagnanti, le cui pestifere emanazioni uccideranno ogni essere vivente all'infuori delle bestie assetate di sangue che vivono nelle foreste e degli uccelli rapaci delle rocce. Ma che nel mezzo di questa desolazione il palazzo del capo dei geni sorgerà splendente e l'orribile urlo del loro grido di guerra si spargerà sulla landa di mattina al meriggio sul far della notte. Che essi terranno il loro festino annuale con le ossa dei morti, annualmente si rallegreranno col gaudio dei vincitori. Penso, signore, che l'orribile malvagità di tutto ciò non richieda commento e perciò mi affretto a firmarmi, eccetera, eccetera, 14 luglio 1829. Non è improbabile che questa lettera possa contenere riferimenti allegorici o politici invisibili ai nostri occhi, ma molto chiari per le vivide menti infantili alle quali era indirizzata. La politica era evidentemente il loro grande interesse. Il duca di Wellington, il loro semidio, tutto quanto si riferiva a lui apparteneva all'età eroica. Se Charlotte aveva bisogno di un cavaliere errante o di un innamorato devoto, il marchese di Douro o Lord Wellesley, i due figli del duca, le venivano prontamente alla mano. Non vi è quasi nessuno scritto in prosa di allora di cui essi non siano i personaggi principali e in cui il loro augusto padre non appaia come Giove tonante o come Deus ex machina. Come prova di quanto Wellesley le ossessionasse l'immaginazione, copio alcuni titoli di suoi scritti nelle loro varie riviste, tra virgolette. Il castello di Liffey, racconto di Wellesley. Versi per il fiume Aragua, del marchese di Douro. Un sogno straordinario di Lord Wellesley. Il nano verde, racconto del tempo passato di Lord Charles Albert Florian Wellesley. Strani eventi di Lord Wellesley. La vita trascorsa in un villaggio isolato o in una casa di campagna solitaria è fatta di molti eventi minuti che penetrano nelle menti infantili per esservi rimuginati. Nessun insolito fatto può essere avvenuto né può avere avuto la probabilità di concretarsi per giorni e giorni, tanto da rimuovere quello antecedente prima che esso abbia assunto una vaga e misteriosa importanza. Perciò i bambini e le bambine che conducono una vita ritirata sono spesso pensose e sognanti. L'impressione prodotta su di loro dal mondo esterno, gli aspetti insoliti della terra e del cielo, gli incidentali incontri con visi e figure estranee, rare occorrenze di quei luoghi fuori mano, sono talvolta ingigantiti da loro e resi così profondamente significativi da sembrare quasi sovrannaturali. Scorgo questa impronta fortemente segnata in quanto scriveva Charlotte in quel tempo e in verità, date le circostanze, ciò non è strano. È stato un fatto comune a tutti, fin dai tempi dei pastori caldei, ai solitari mandriani stesi sulla verde zolla erbosa per tutta una mezza giornata d'estate, al monaco solitario, a tutti coloro nella cui immaginazione le impressioni ricevute dall'esterno hanno avuto il tempo di crescere e di vivificarsi finché sono state accettate come vere e proprie personificazioni, come visioni soprannaturali di cui non è possibile dubitare senza sacrilegio. In Charlotte vi era un vigoroso senso comune atto a controbilanciare questa tendenza, quotidianamente esercitato. I suoi doveri non si limitavano a studiare le lezioni, a leggere un dato numero di pagine, a fare sue certe idee. Doveva inoltre spazzare alcune stanze, fare commissioni, aiutare a cucinare i cibi più semplici, essere di volta in volta compagna di giochi e sorvegliante delle sorelline e del fratello, cucire, rammendare, imparare l'economia sotto la guida della sua prudente zia. Così vediamo che mentre l'immaginazione riceveva potenti impressioni, la sua eccellente facoltà di comprensione aveva pieno potere di rettificarle prima che le fantasticherie prendessero corpo come realtà. In un pezzetto di carta Charlotte ha scritto il seguente resoconto: Haworth, nei pressi di Bradford, 22 giugno 1830, 6 pomeridiane. Lo strano fatto riferito di seguito avvenne il 22 giugno 1830. In quel tempo papà era gravemente ammalato, costretto a letto e così debole da non potersi tirare su senza aiuto. Tabby e io eravamo sole in cucina, verso le 9:30 di mattina. All'improvviso udimmo bussare alla porta. Tabby si rizzò e andò ad aprire e apparve un vecchio che, rimanendo fuori, le si rivolse così. «Il parroco abita qui?» «Sì». «Desidero vederlo». «È a letto ammalato?» «Ho un'ambasciata per lui». «Da parte di chi?» «Dal signore». «Chi?» «Il signore desidera che io gli dica che lo sposo sta giungendo e che ci dobbiamo preparare a incontrarlo, che le corde stanno per essere allentate e la coppa d'oro infranta, la brocca rotta presso la fontana». Mentre Tabby chiudeva la porta, le chiesi se lo conosceva, rispose che non lo aveva mai visto prima di allora. Pur essendo persuasa che quello era un qualche fanatico entusiasta, forse ben intenzionato, ma totalmente ignorante della vera pietà, tuttavia non potei trattenermi dal piangere alle sue parole, pronunciate così inaspettatamente proprio in quel particolare momento. Benché la data della poesia che segue sia alquanto incerta, mi sembra assai appropriato di inserirla qui. Deve essere stata scritta prima del 1833, ma di quanto non abbiamo modo di accertare. La trascrivo come campione del notevole talento poetico dimostrato nei vari microscopici scritti di quel tempo, perlomeno in tutti quelli che mi è stato dato di leggere. Il cervo ferito. Passando in mezzo all'ombra più profonda del cupo cuore del bosco, la notte scorsa vidi un cervo ferito giacente, solitario ed appartato. Quel tanto di luce che filtrava tra i rami folti, luce sparsa, poca e spenta, si insinuava attraverso le felci che formavano la sua cuccia e si accentrava in pieno su di lui. Il dolore tremava nelle sue membra stanche, il dolore riempiva i suoi occhi pazienti, schiacciate dal dolore in mezzo alle felci ombrose e le sue corna ramose giacevano. Dove erano i suoi camerati? Dove la sua compagna? Tutti via dal suo letto di morte, e lui, così colpito e desolato, soffriva e sanguinava da solo. Sentiva egli quello che un uomo sentirebbe, abbandonato dagli amici e dolorosamente desolato. Il dardo della sofferenza e la puntura del dolore lottavano nel suo petto straziato. L'anelante desiderio per l'affetto perduto appuntiva ogni dardo mortale. L'amore non corrisposto e la fede tradita tormentavano essi il suo cuore. No, lasciate all'uomo il destino che gli è proprio. Questi sono i palpiti dolorosi che sorgono intorno al letto oscuro e desolato dove muore la stirpe di Adamo.